Likewise. God, it's finest. Wonder why Optimum Prime is. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit at the highest. Do it, I will. Do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Better big up your love for the betcha I chill. Ore 19:49 secondi, sta per iniziare una nuova puntata di Likewise sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa 87.9. E Donna Sonica e Pinclo a tenervi compagnia per un'oretta con della buona musica. Ondarossa.info per chi ci ascolta o ci vuole ascoltare in streaming. They flex, they flex, they flex. I know they can't see me. E lasciamo la nostra fantastica sigla di sottofondo, ricordiamolo, Sampa the Great, Oh My Gosh. Io l'altro giorno ho detto Oh My God, che vabbè, però insomma siamo là. Siamo lì. E cominciamo, perché dopo di noi ci sono note cose città, quindi abbiamo un'ora che sia un'ora stretta, abbiamo sempre tanta musica da farvi sentire, salutiamo l'ora di buco che ci ha preceduto. Siamo pronte, K-Young, White Teeth. Mommy didn't raise no fool. Told me choose friends carefully. Don't let me hear from school. And have to come down your school today. Home by a certain time. No long ting streets word for we. Don't go following crowd. Think for yourself, my child. You ain't gotta worry about me. You ain't gotta worry about me. Look, mommy, I'll be okay. What's not to like about me? All I heard growing up, gotta work twice harder than your white friends. I got superpowers, mommy. I got superpowers, mommy. All I do is push the button, watch the tingle. White teeth. White teeth. They be brighter than your white teeth. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. White teeth, white teeth. They be brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Daddy didn't raise no fool, no. Beat round the bush, he's straight with me. Different kind of cool, yeah. Thinking I wanna have that someday. Up late playing the blues, yeah. Had me feel I could do anything. Okay, I'ma bring the trophy home. Daddy, I'ma pick up where you left though. You ain't gotta worry about me. You ain't gotta worry about me. Look, daddy, I'll be okay. What's not to like about me? All I heard growing up, gotta work twice harder than your average. I got superpowers, daddy. I got superpowers, daddy. All I do is push the button, watch the tingle. White teeth. White teeth. Baby, brighter than your white teeth. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. White teeth. White teeth. Baby, brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Think you better come with me. Take it to another league. No price on these curly whites. Put your wallet back inside your jeans. Why you complaining, you're complaining? Ah, I'll show you how to clean them. Move up the ladder, flee the snakes. I haven't fallen at your feet. Worry about me, you don't have to worry about me, yeah. Look, Annie, I'll be okay. What's not to like about me, yeah. Growing up, all I heard, gotta work twice harder cause I'm black skin. I got superpowers, damn it. I got your white tee. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. White teeth, they be brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth, teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my, check my teeth. Check my teeth, teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my, check my teeth. Check my teeth, teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth. Check my teeth, teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Yes, Lord! Check my... Think I need a full charge, cause my battery run out. From carrying the weight, I wouldn't change it, no doubt. Walk into a room and watch my P's and my Q's. But taking all the freebies, excuse me. Please don't let me hit you with my Sunday best. No competition if you ain't trying to impress. Mommy's not around, lift up the lid, let me taste it. Brother's on the lookout for my own safety. Let me preach about it. Blessed and highly favored, ain't no silencing we. Choir sing about it. Found to speak love for my people, forget about it. Let me preach about it. Blessed and highly favored, ain't no silencing we. Choir sing about it. If I don't speak love for my people, people. Oh, hey, hey, hey. E questa era Kay Young, White Teeth. Lei ci ricorda che ha i superpoteri come ogni donna e soprattutto come ogni donna nera deve assolutamente avere per affrontare questa società. Un bellissimo sound hip hop, però con un chiaro stile europeo, britannico, no? Britannico, lei è batterista, produttrice, rapper, autodidatta, londinese appunto, britannico in questo senso, proviene da una famiglia di musicisti. Questo è il suo EP, 5 tracce del 2021, uscito This Here Feels Good. Lei si chiama Kay Young, insomma, che dire, rhythm and blues, questa tromba alla fine così jazz, carina. Sì, io la trovo veramente veramente interessante, poi appunto le liriche sono molto efficaci, molto immediate, insomma, quindi assolutamente secondo me dovete ascoltarla. È appena, diciamo, firmato con insomma una etichetta importante, la Rock Nation. Esatto, di Jay-Z, e quindi insomma fondamentalmente è stata scoperta nell'ambiente hip hop, no? Perché è un po' un ambiente sì, in cui devi essere spinto e ti devi spingere. Devo dire, no? Che non è la prima artista che metteremo questa sera che ha questa storia, ma lei suonava su, metteva i suoi video su Instagram, quindi l'hanno in realtà scoperta così, facendo insomma giri di questo tipo. Ha pubblicato un EP, già un EP nel 2020, che si chiama Middle Matters, che ha avuto grande successo di critica. E insomma dice che ci ha messo un po' per trovare il suo suono, perché a lei piace appunto un po' di tutto, dall'hip hop al jazz al rhythm and blues. Suo padre ascoltava Eric Clapton, i Pink Floyd, insomma dice prima di trovare una forma da dare al suono che fosse mia, dice, ci sono voluti quasi 10 anni. Però dai, diciamo che l'ha trovata. Ha trovato un bellissimo sound. Siamo in attesa, sta ancora lavorando, quindi probabilmente speriamo che stia lavorando finalmente ad un disco, senza aprire qui polemiche sul finalmente, però speriamo che stia lavorando ad un disco. insomma ha fatto anche diverse cose, è coinvolta nel video antirazzista Time for Change all'anniversario della prima morte di George Floyd, quindi una ragazza che insomma non si tira indietro anche di fronte a una presenza a segnalare un punto sulle questioni più vicine alla comunità afro. Come ci piace a noi, un attivista che scrive le cose che vuole dire e spesso ci mette anche la faccia e il corpo. E passiamo subito, poi lo faremo, poi lo condivideremo questo diciamo discorso che facevamo in diciamo fuori onda, in fuori onda, sì, sulla questione EP, insomma, così magari vi coinvolgiamo e ci raccontate anche cosa ne pensate. Passiamo subito a qualcos'altro, lei si chiama Ravina, il pezzo si intitola Rush. Ravina, il pezzo si intitolava Rush. Sì, abbiamo cambiato genere, insomma. Strano, non succede mai, likewise. Ci siamo spostate in diciamo nella in questo pezzo di questo artista tratto intanto nel Queens a New York, quindi esatto. Faremo sempre la spola come al solito tra un po' di posti diversi. Intanto nel Queens, dove è nata lei, da una famiglia Sikh, scappata appunto dai pogrom dell'84. Esatto, del 1984, e quindi insomma viene da una situazione, da una famiglia con una cultura e una tradizione. Lei parla moltissimo, appunto, racconta moltissimo del fatto che ogni persona della sua famiglia aveva la sua meditazione, quindi tutto quello che faceva parte della cultura di provenienza era parte della sua vita quotidiana, ma ovviamente è cresciuta nel Queens, quindi in realtà è una giovane americana interessata all'R&B, al soul, al jazz e anche al folk, e quindi è da lì che in qualche modo si ispira. Anche se, come abbiamo potuto sentire anche in questo pezzo, dentro c'è, ci sono anche tantissimi suoni che vengono dall'India. Quindi insomma prova a fondere le due cose, anche se in realtà per lei è un racconto indiretto, una conoscenza indiretta. Cioè, poi cioè quella cosa dell'India, per esempio, si vede tanto, secondo me, anche da un punto di vista visuale. Se andate a cercare la copertina del disco, c'è quell'uso dei colori molto saturi, un rosa molto acceso, che in realtà è abbastanza frequente nella, diciamo, nella grafica indiana, per dire. E anche nei video lei, insomma, indossa vestiti tradizionali. Che fa lei, ovviamente. Certo. Video se li fa lei. Indossa vestiti tradizionali, e comunque anche le danze, le movenze sono ispirate a quelle che sono le danze tradizionali. Il pezzo è tratto dall'ultimo album che è uscito quest'anno, che si chiama Ashes Awakening. E tu volevi raccontare qualcosina di questo album, che sì, insomma è un po' particolare come concept. Volevo raccontare, intanto è un album, sono 15 tracce, rivendichiamocelo con orgoglio. E no, la cosa che mi ha fatto molto piacere, e in qualche modo mi fa vedere, nel senso che sia davvero, che sia abbastanza onesta sulla sua musica e anche sulla sua persona, il fatto che alla fine di questo disco, che in realtà è un disco che esplora appunto sonorità rhythm and blues come le stiamo sentendo, a margine un po' di musica comunque occidentale, lei mette addirittura una canzone, cioè mette una meditazione alla fine, una meditazione guidata, che è come ultima traccia, Let Your Breath Become a Flower, quindi che il tuo respiro diventi un fiore. E mi è piaciuta molto questa cosa, perché vuol dire che in qualche modo sta cercando davvero di trovare una sintesi tra, insomma, le sue diverse anime, probabilmente. Il suo album di debutto del 2019 si chiamava Lucid, e diciamo che nelle canzoni, nei testi ha esplorato, insomma, la sessualità, la guarigione dal trauma e appunto la spiritualità, che come dicevamo non mi meraviglia, perché appunto avendo una famiglia Sikh, comunque i Sikh hanno una forma, un modo di stare abbastanza codificato, tra cui la meditazione è una delle cose, diciamo, rilevanti. E questo album Ashes Awakening è una specie di, diciamo, racconto inventato di questa principessa dello spazio Punjabi, e che diventa un po' il suo alter ego, di cui racconta questo viaggio, che si conclude con questa meditazione di cui ci raccontava Pinklo. Quindi insomma è un lavoro interessante, molto, anche molto fantasioso, insomma, in cui entrano in gioco tante cose, quindi ve la consigliamo. E adesso questo è un mio regalo per Donna Sonica. Non ci avete, questa canzone l'ho messa io nella playlist, non l'ha messa lei, perché è una canzone di dream pop. Quando le ho beccate questa band, ho detto: oh, New Dead, Say It. Ho detto: ah, il dream pop che piace a Donna, questa sicuro la mettiamo. Sono emozionata. New Dad, Say It, da niente di meno che da Galway, quindi insomma da un paese che è più sì, che è più famoso, diciamo, per la musica tradizionale sicuramente, dove appunto quando vai ci sono tutti questi pub dove trovi musicisti un po' da tutta Europa che vanno lì per suonare il bodhrán, il violino, eccetera eccetera. Insomma, arriva questa band che ha fatto tesoro della della quarantena, dei Covid, insomma dei lockdown anche vari, perché sono andati a vivere insieme, quindi forse è stato anche un po' inevitabile, cioè. Che è una cosa molto comune, ce la stiamo scoprendo, moltissime band soprattutto giovanissime che insomma si sono trovati chiusi in casa e quindi hanno fatto buon uso di questa costrizione mettendosi a suonare sul set. Sì, io diciamo direi più shoegaze che dream pop, mi fanno pensare a Wolf Alice, mi fanno pensare a Dive, sono molto molto carini, anche le altre cose che ho sentito di loro sono molto carine. Sì, che non è che hanno prodotto ancora tanto, perché siamo EP, diciamo, credo. Esatto, sempre con questi EP, questo è, infatti è un EP, si chiama Banshee, però stanno lavorando al loro primo disco, dai, anche qui c'è speranza. La vocalist, leader della band, si chiama Julie Dawson. E sono carinissimi. Sì, ma lo sapevo che ti sarebbero piaciuti, non avevo dubbi. Quando li ho beccati nei miei ascolti per la puntata di Likewise di stasera, ho pensato, ma questi a donna sicuro piacciono, quindi più. Bellissimo regalo. Scriveteci likewise@ondarossa.info, telefonateci 0649 17 50, siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 19.23 e noi vi facciamo ascoltare un altro pezzo, ricambiamo genere, ritorniamo invece negli Stati Uniti con Jasmine Sullivan, Pick Up Your Feeling. Funny how I finally flipped the script on ya. When you the one who's double dipping, yeah. You so sloppy how I caught you slipping, You're off the leash. Run me my keys. No more popping up the idiot. I ain't even got the miles to trip on ya. No phone. Who is this? Brand new. Like the whip. Rack it up. No assist. Hey bitch, I ain't average. Wake up. Need a zip. Hennessy. Take a sip. My jeans, I'm too thick. I ain't got no room for extra baggage. Don't forget to come and pick up your hood. Feelings, don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings while I'm up cleaning. Boy, please, I don't need it. Memories, all that shit, you can keep it. Forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. I'm trying to find a fuck to give for ya. You ran out of chances of forgiving ya. Yeah, listen, I'm listening. Just for you to go and break my heart again. I learned my lesson last night. Well, I ain't coming back now. This is what you had now. And I bet you I look better, don't I? New phone. Who is this? Contact. Don't exist. Way too expensive. No more benefits. Proper business. Hands tied, no grit. I ain't got the room for extra baggage. So don't forget to come and pick up the feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings. But you had your fun, but I had enough. Now I'm really done. I deserve so much more than you gave to me. So now I'm saving me, and I made my peace. So you can run them streets, but don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no peace enough. You need to hurry and pick up your feelings. I'll be your Jasmine Sullivan, che pezzone. Pick up your feelings, che dice, anzi, lui nel suo caso che se ne va e dice guarda, lascia perdere, tutto a posto, stiamo bene così, anzi fai una cosa, vieni a pigliare pure i feelings e abbiamo finito. Così abbiamo chiuso. Hostels è l'album da cui è tratto questo pezzo che io adoro. Lei ha, cioè, una voce che in un solo pezzo praticamente spazia da bassi incredibili in cui non sembra manco lei ad acuti fantastici, è un mezzo soprano, giusto tanto per dire così, se proprio vogliamo dare delle definizioni, ed è insomma in giro da un po', da una decina d'anni, forse qualcosina in più, una protetta di debuttato nel 2008, quindi insomma qualcosina e in più, e all'attivo 4 dischi, qualcosina in più di 10 anni. Ed è praticamente stata scoperta, un po' lanciata e prodotta in credo almeno 2 degli album che ha fatto lei, ma sicuramente il primo di esordio da Missy Elliott. Scusate, mica un a caso che qualcuno forse avrà visto nello show Lifetime di ieri sera del Super Bowl. Nel Super Bowl, dove anche lei a un certo punto si è esibita, insomma, comunque alla fine tutti i musicisti R&B pop passano da quel canale prima o poi. E dobbiamo dire che questo disco è un disco molto particolare. Quello che abbiamo, ci sono, diciamo, la traccia l'abbiamo presa dalla versione deluxe dell'album che è uscita comunque nel 2021 e contiene 24 pezzi, ma non vi spaventate, è un'ora di musica, state tranquilli, cioè sono 24 pezzi. Ma perché? Perché è un disco molto particolare, nel senso che prima di ogni gruppo di canzoni c'è la storia di una donna. Lei ha lavorato molto su questo tema, ha detto ho scritto questo disco per dare una voce a ogni donna, meritiamo rispetto sia che lavoriamo come amministratore delegato di una società sia come spogliarelliste. È un disco sull'unità, sul coraggio, sulla responsabilità, sulla fiducia e anche sulla vulnerabilità e l'autoriflessione. È un disco su una donna che decide come presentarsi al mondo e che non vuole essere definita o influenzata da nessun altro che non sia lei. È un disco che parla di donne che scrivono le proprie storie fatte di imperfezioni senza vergogna, ha spiegato in qualche intervista. E in questo album ha invitato anche altre artiste a dare voce a, insomma, a questi pensieri, tra cui che sentiamo in sottofondo in Girl Like Me. Questo per spiegarvi anche le sue parole, in realtà sono collegate al titolo dell'album Ox Tales, che in realtà è la francesizzazione di Oz, che è un termine dello slang afroamericano che è traducibile appunto con puttane. Ma esatto, per come vi raccontavo prima dalle sue stesse parole, appunto lei voleva insomma capovolgere un po' questa situazione e ridare dignità a tutte. Perché mi guardi così? Perché stasera io non ho i miei appuntini e tu sei preparatissima, sono felicissima di questo. Vabbè, quindi bom. Ti daremo 6 in pagella. Non ti... No, 5 meno oggi me lo do da sola. E quindi passiamo al prossimo pezzo. Lei si chiama Tasha e il pezzo si intitola Perfect Wife. Oh, un po' di chitarre. I'm a wreck, I'm an over my head. Find myself at your doorstep again and again. Something so sweet in the way that you soothe. Should I stay up at night, honey, just for you? Cash Up, Perfect Wife. Questo viziaccio di chiudere le canzoni così debotto. Una cantante, songwriter, poetessa, attivista. Poeta. Beh, che okay, poeta. Poeta di Chicago, che appunto si autodefinisce una radical softness, cioè appunto una che fondamentalmente racconta e diciamo ha un attivismo gentile. Mi sembra una cosa bella. La canzone, sai che mi faceva venire in mente? Tipo quando tu sei in macchina col finestrino aperto, tramonto, fine dell'estate. Quelle canzoni che ti quella carina, no? Quell'atmosfera un po' leggera. Tu hai tanto queste cose che... Sì, perché io... Della sovrapposizione sì, della musica con la... Con momenti, sì, mi succede, lo so. Ma non c'è il suo problema. Bello, una bella cosa. L'album è Tell Me What You Miss The Most, è uscito nel 2021 del suo secondo disco. E quindi dai, manco male. Non ci sono moltissime notizie biografiche in giro, insomma, su di lei. Che tutto sommato mi sembra anche ogni tanto fa anche bene. Esatto. Diciamo, in genere quando si esibisce live, appunto, crea dei set in cui mette insieme poesia e performance musicale. Quindi, insomma, mette insieme i suoi due aspetti artistici. E quindi, insomma, il primo album con il quale l'album di debutto con il quale ha attirato una certa attenzione si chiama Alone at Last. Mi piace molto quello che scrive, parla soprattutto tantissimo di prendersi cura di se stessi. Ed è prendersi cura di se stesse, del proprio corpo, della propria anima. Qui torna Ravina. Esatto. Sono sempre che non è sempre tutto casuale, però poi alla fine succede che ci sono questa, cioè si creano delle sinergie dentro la scaletta di Likewise, per cui ci sono dei rimandi che non sono appunto ricercati, ma che capitano. Infatti lei dice: molti dei miei scritti recenti sono incentrati sulla mia camera da letto e l'autoriflessione, l'autoguarigione che ha a che fare con il mio letto, ma speriamo in tutti i sensi, in tutti i modi, ed è un luogo molto sacro per lei, così ha dichiarato. E quindi, come queer woman of color, quindi come donna di colore queer, come si definisce, insomma, affronta in maniera radicale, in maniera forte, attivista, anche combattiva, gentilmente il mondo. Non è una cattiva idea, io... E nella sua musica questo si sente, sì, no? Si sente anche dal pezzo che abbiamo di sottofondo. Before they see that we're leaving, don't worry. Haven't you noticed you haven't been breathing? E visto che sono le 19:37, lasciamo Tasha e ascoltiamo un'arpista e cantante che è nata ad Atene ma che attualmente vive e lavora a Berlino. Il titolo della canzone è Maps, l'album è Nano Diamond, 13 tracce, 2021, Sissi Ada. Thank you. άνθρωποι πέφτουν στα στόματα κατευθείαν. Οχυρωμένες αρχές πόλεις ανεμίζουν ελεύθερες σε σημερινές άκρες. Και όλο αυτό με ένα συγχρονισμό πρώτων βιολιών που σημαίνουν την αρχή της εποχής των σίκων και μαζί μια επαιτίου που τα έκοβες για μένα. Questa è la Sissi Rada, il pezzo si chiamava Maps ed è insomma una musicista a tutto tondo praticamente. Credi sì. È una musicista classica in realtà, nasce come studia il piano ma poi si appassiona quasi subito all'arpa e quindi diventa una insomma una musicista, un'arpista. Tra l'altro le sue collabora spesso con la Philharmonic Orchestra, la Deutsche Oper di Berlino, insomma con anche con l'Orchestra di Stato di Atene, l'Opera Nazionale Greca. Diciamo che ha quasi due carriere carriere parallele. In una è questa, diciamo, della musica elettronica prevalentemente, perché poi alla fine avete sentito è molto sperimentale. Non è la prima cosa che è sperimentale in questo senso che mettiamo a Likewise, però ci piace scoprire anche un po' di sonorità differenti anche nell'elettronica. Questa, una volta negli anni 90 l'avrebbero chiamata elettronica di concetto. Tra l'altro in questo pezzo però, e in alcune, diciamo, come guest vocal dell'album c'è anche la presenza di Elena Platonos, che è una delle compositrici e musiciste elettroniche internazionali della scena greca, ma insomma internazionali più importanti. C'è anche una coproduzione di Brian Eno, insomma c'è tantissima roba, ovviamente base a Berlino e etichetta berlinese, perché chiaramente alcune cose in qualche modo trovano una forse una collocazione più naturale. L'elettronica a Berlino, cioè, mi sembra proprio quasi un binomio esatto, abbastanza scontato. Quindi noi vi consigliamo di provare ad ascoltare il Nano Diamond, anche se non è proprio nel vostro, nelle vostre corde, però sono quelle musiche anche strumentali che in realtà, se si stanno facendo lavori al computer, in qualche modo non ci se ne potrebbe uno non rendersene conto, ma aiutano molto perché aprono la mente, rilassano. O si stanno facendo delle cose artistiche, okay, si sta lavorando, sì, certo. Perché purtroppo sono le 8 ore di lavoro che mi si infilano nel cervello, ma certo, qualsiasi attività che state facendo, secondo me è interessante un gioco delle, cioè un suono elettronico molto piacevole. 19.45, Likewise, Radio Onda Rossa. Se non ho la scaletta sbagliata, dovremmo ascoltare un pezzo che è Ira, yeah. Giusto? Sì. Il pezzo è Ladder, l'album è Speak, il suo secondo disco. Lei è una cantautrice norvegese. Go. No, che vuoi dirmi? Vuoi dire qualcosa? No, go. Here E questa era Ira con il pezzo LED. Sì, appunto, come come annunciavi nella presentazione, è una norvegese di base a Londra, in giro dal 2015. Questo EP si chiama Speak, molto bello, mi piace moltissimo. Non sono molto compatta, hai visto? Hai sentito? C'è proprio un wall of sound, no? Mi veniva un po' shoegaze, come piace dire a me. The Hoof, che abbiamo sentito qualche puntata fa, e PJ Harvey tra le sue, diciamo, tra i suoi fondamentalmente come si dice, ispiratori, idole, ispiratrici della musica e di quello che fa, fondamentalmente una di quelle che racconta di se stessa, che cioè, ha sempre pensato che quello doveva fare la musicista, sì, è vero. Non ha avuto dubbi. Non ci sono anche qui tantissime notizie biografiche. E così, se volete una curiosità, il suo nome è Anna Lena Kirsten Bruland, che ovviamente si è scelto un nome d'arte perché forse era un po' più semplice, ha finito il CD praticamente. E ha pubblicato un EP nel 2015 e il suo primo disco nel 2017, che si chiama Reflection of Youth, Riflessi di giovinezza. E questo che abbiamo di sottofondo e che stiamo ascoltando sono le tracce del suo invece secondo disco, quindi una carriera ancora giovane, diciamo. Molto giovane. In giro in realtà ci sono molte cose carine su di lei, non sulla sua vita personale, ma su quello che pensa delle cose intorno a sé. E c'è una bella, diciamo, intervista che io ho perso perché non ho i miei appuntini, quindi non posso citarvi, in cui lei e la ex cantante chitarrista dei Lush si facevano domande a vicenda e raccontavano anche la loro esperienza del sessismo sui palchi. In particolare lei diceva: ogni volta che salgo su un palco e mi preparo a suonare e faccio il soundcheck, devo sempre dimostrare di capirci qualcosa con i tecnici del suono, che normalmente sono maschi, che alla fine mi vengono a fare i complimenti perché non sono una cretina e ho, diciamo, il diritto di stare sul palco e ci capisco qualcosa. E quindi diceva, diciamo, questa cosa un po' sta cambiando, perché piano piano sono sempre di più le donne, tutti. Sono sempre di più le donne che spesso si occupano del suono, e quindi ovviamente il rapporto diventa diverso, diventa paritario. Però insomma è anche una donna e un artista sensibile a quello che succede e ce lo racconta. Adesso ricambiamo genere e ascoltiamo, in realtà ascolteremo una cover di una canzone brasiliana, ma poi vi spiego perché ho scelto di mettere la cover e non l'altra canzone di un singolo, perché quello lo so, è tutta la sera che rompo le scatole con gli album, e adesso invece parliamo di un singolo, ma poi vi racconto perché. Naima Bok e la canzone Berimbau. Que já chegou. Viva la musica blast. Berimbau, questa era Naima Bok, che in realtà avete già avete sentito. Non so se l'hanno già sentita. No, in realtà no, perché no. L'ultimo album non c'era, esatto, non c'era. Però insomma. Perché lei ha suonato, ha iniziato a suonare a 15 anni e la sua prima band in realtà sono state le Goth Girl, che vi ricordate abbiamo messo a Likewise, è stata con loro suonando il basso per 6 anni in tour, eccetera, quando insomma ha capito che questa esperienza era per lei quantomeno conclusa. E probabilmente perché, e questa da qui nasce la motivazione del fatto che vi abbia messo, ho deciso di mettere il lato B del singolo e non diciamo il singolo, che celebra la sua firma con la Sub Pop, quindi neanche un'etichetta a caso anche lì, perché secondo me vuole un po' trovare un sound diverso, probabilmente legato anche alle sue origini, alla sua infanzia passata in Brasile, perché il padre è brasiliano, la madre è greco-inglese, quindi anche qui un mix molto, molto forte. E ha ascoltato ovviamente tanta musica da piccola brasiliana, e quindi probabilmente firmando per la Sub Pop potrebbe tirar fuori un qualcosa di diverso dalle Goth Girl e altre sonorità forse più vicine insomma a questa parte brasiliana. Perché che tu io ti ascolto incantata oggi, perché è fantastico, e che probabilmente appunto ha nelle corde in qualche modo, certo. Interessante che sia passata la Sub Pop, che insomma non è famosissima per la musica in qualche modo. No, ma poi magari adesso poi quando uscirà il primo disco invece ci smentirà totalmente, avrà fatto, che ne so, un disco di elettronica che non c'entra nulla. Però boh, mi incuriosiva il fatto che avesse deciso comunque di presentarsi con la Sub Pop mettendo nel lato B di questo singolo un classico brasiliano. Comunque in qualche modo forse era anche un modo per dire io sono tante cose e sono anche questo. Assolutamente, tra l'altro è una bellissima cover, come dicevi tu. Vive in realtà, si è ritrasferita con la famiglia a Londra, e vive a Londra, in South London, quindi questa sera c'è tantissima Inghilterra nelle nostre selezioni. Quella, la colpa è tua, però lo non possiamo dire. Non è colpa mia, in realtà. Sì, no, in realtà è perché c'è una scena molto viva. L'abbiamo già detto tante volte a Likewise, c'è una scena molto viva, molto forte, e tra l'altro anche aperta a tanti generi diversi, a tante influenze diverse, e questo in qualche modo la fa finire sempre sui radar delle canzoni che scegliamo da farvi ascoltare qui a Likewise. Sono le 19:48, dal di là del vetro sono già arrivati i nostri amici per Note, Cose e Città, li salutiamo. E noi però volevamo chiudere la puntata con un omaggio, perché esattamente il giorno dopo che abbiamo fatto la puntata della Quasi la settimana scorsa, ci ha lasciato Betty Davis, e un po' ci dispiace. Betty Davis ci dispiace per molte ragioni, ci dispiace perché sia morta, ma ci dispiace soprattutto perché la sua vita e la sua musica in realtà è forse una delle più sottovalutate e poco stimate della scena funky rock diciamo contemporanea, e per alcune persone che la conoscono, per alcune musiciste e musicisti è tipo la donna che inventò la fusion, per altre è sconosciutissima, e quindi insomma per noi è assolutamente importantissimo farvela ascoltare. 3 album diciamo prodotti negli anni 70, poi a un certo punto ha deciso di smettere. Prima aveva avuto una carriera come modella, poi ha deciso di smettere di suonare, dall'Europa è ritornata in America, è uscito poi nel 2009 un album che in realtà era stato registrato negli anni 70 ma non era stato mai prodotto, quindi non era mai stato ascoltato, e noi vi facciamo ascoltare proprio forse scegliela tu, una delle due, dai. Guarda, sono tutte e due fantastiche. Forse avrei scelto Anti Love Song, perché siamo appena passati nella palla di San Valentino. No, però secondo me They Say I'm Different penso che sia forse un inno di Betty Davis a se stessa, sì. They say I'm different 'cause I'm a piece of sugar cane. Sweet tea. she spit, it's nothing but a tray on my drain. Spit on. They say I'm different cause I eat shit, man. So I can't help it, I was born and raised on them. I tried her every morning, have to slop the hogs and maybe get off humping the Jolly Hooker. Moonshine, the Baby King and Jimmy Ray rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pump. Talk about it, talk about it. I'm talking about Lightning Hopkins. Quindi grazie Betty Davis per la musica, per quello che hai fatto, per tutte quelle e tutti quelli che sono venuti dopo. Quella la musica resterà. Sono le 20.04, quindi la Equise di questo martedì 15 febbraio sta per chiudersi. Allora, sì, no, vi vogliamo ricordare prima di salutarvi che c'è un aperitivo a sostegno di Radio Onda Rossa questo sabato 19 febbraio dalle ore 18 all'ex SNI, al centro sociale ex SNI in via Prenestina, dalle 18 diretta con Salpinaz, Disaccordo Live, e quindi insomma assolutamente aperitivo, cena a cura della radio, per cui venite, venite, sostenete. A sostenere. Salutiamo tutte e tutti quelli che sono all'ascolto di Radio Onda Rossa, i nostri ascoltatori che ci hanno mandato messaggi, ci hanno insomma segnalato la loro presenza sui social, nelle chat. Speriamo che la musica di questa settimana vi sia piaciuta. Troverete il podcast domani in mattinata sul sito di Radio Onda Rossa. Diffondete il verbo. The world is, so I'm at the half of the world is. They don't. E Donna Sonica e Pinklo vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana. Lasciamo la console, note, cose e città. Buon proseguimento con l'ascolto di Radio Onda Rossa. Ciao. Hey.